Chiedo asilo in the space. Chiedo asilo. Tutta colpa delle regioni, capi, visto? Le regioni. Cosa c'è? Cosa hai, Drago? Hai visto? Il nuovo bersaglio della magistratura. E ormai si è visto che praticamente sono le regioni. Basta andare lì a controllare a campione, trovi sempre dei reati nuovi. Quindi, che sia Roma, Milano, Torino, Napoli, Palermo, non importa. Quindi, il federalismo è già morto. È morto. Sì. Ed è morto pure giovane. Io mi ricordo benissimo, solo 6-7 anni fa, il buon Calderoli parlava della devolution come se fosse la panacea di tutti i mali. Devolution qui, devolution là. Mi ricordo anch'io. Infatti mi ero molto stupito. Di cosa? Del fatto che Calderoli conoscesse la teoria della de-evoluzione, dei divo, no? Tito! I divo, il gruppo di Ekron, Ohio. Cosa c'entrano i divo, dai? Come cosa c'entrano? De-evolution, è un'idea dei divo. Lo sai chi sono i divo? Ma sì che lo so chi sono i divo. Comunque dai. È sempre meglio fare un po' di ripasso, siamo all'asilo. Allora, prendi nota. I divo sono un gruppo di Ekron, Ohio, nato nella prima metà degli anni 70. Si distinguono per un look iperrealista e per un suono sintetico e grottesco. Lì, per favore, con quel giornalino. Allora, non sta mai attenti. Allora, è grottesco. Secondo la teoria della de-evoluzione, la loro versione di I Can Get No Satisfaction del 1977 è servita da modello per quella dei Rolling Stone del 1965. Vabbè, dai, sono contento di fare il ripasso anche con tutti quanti, però tutto ciò non ha nulla a che vedere con Calderoli e la devolution. Eravamo partiti. Bravo, anzi, eravamo partiti prima dalle regioni che sono sotto lo stretto controllo delle procure. Poi eravamo passati alla morte del federalismo. È morto. E poi alla vecchia cara devolution di Calderoli. E adesso? No, adesso dico che la devolution doveva servire a rendere le regioni responsabili di quello che amministravano. Niente più centralismo, niente più controlli statali. Invece? Invece è uscito fuori Air Batman. Vedi? Il sonno dello Stato genera gli... Il sonno dello Stato genera gli Air Batman. È così. Genera? Gli Air Batman. I mostri, vabbè, dai. Gli Air Batman. Che poi, tra l'altro, lui si vuole far chiamare il federale. Quindi. I federali. Quindi. Ma vabbè, comunque, Calderoli, scusa, che aveva già fatto vedere quanto fosse in gamba col Porcello. Abbiamo visto che anche lui di se stesso diceva grandi cose. Sì. Adesso sarà stato pure svergognato, no? Dallo scandalo delle regioni. Andato, no? Dalla politica. Io qualche giorno fa mi pare di aver sentito dire che sta preparando una legge elettorale nuova per sostituire il Porcellum. Ma chi? Calderoli. Una legge elettorale? Sì, sai, tutti contenti oltretutto, si fidano tutti di lui, PD, PDL, guarda, fai tu Calderoli, perché come le fai tu le leggi elettorali non le fa nessuno. I bambini dell'asilo stanno facendo casino, ci vuole qualcosa per tenerli impegnati. Chiedo asilo. E ora, bambini, ricreazione. Allora, l'hai fatto sto sogno conclusivo dell'avventura? Com'è che si chiamava l'avventura? Assicurazione, finora ci avete fregato voi, ma adesso vi freghiamo noi, qualcosa del genere. Le avventure di Kit Tex alla milanese, titolo Assicurazione, sottotitolo... Finora ci avete fregato voi, adesso vi freghiamo noi a voi, no? Va bene. Allora abbiamo messo in piedi... Un finto incidente, una truffa in praticamente ai danni del comune di Milano. Il primo sogno si fermava che c'era praticamente il rimborso, restava solo da attendere 30 giorni. Ecco, l'attesa del rimborso. Ah, ecco. Che è stata vissuta ognuno a modo suo, no? Chi ti faccia la pirla ha digiunato. Per 30 giorni. Che poi staccano su. E perché era la tensione, non riusciva a mangiare, dove aspetta i soldi. C'è anche qualche creditore, non so come dire. Qualcuno che bussa la porta un po'. Capisci? E quindi è stato chiuso in casa 30 giorni. Tex ha bevuto. Alla fine è fiato tutto liscio, cioè nessuno ha detto niente. Aspettano che a sto punto arriva la telefonata. Infatti, un mese dopo, no? Quando ormai era ora, Kit e Tex pregustavano i soldi, no? Allora è arrivata una telefonata dell'assicurazione. Voi potete immaginare, cioè, l'eccitazione in casa Willer, perché è sempre casa Willer comunque. Anche se una famiglia larga, casa Willer. Pronto casa Willer. E c'erano tutti, DJ Jack, Kit figlio. Ovviamente questi casi hanno risposto Carson, no? E quindi siete. Sì, pronto, parlo con Kit Carson? Sì, sono io. Ma è sicuro lei? Lei Kit Carson faccia da pirla? Certo, cioè no. Lui gli fa, Kit faccia da pirla a Carson, cioè c'è una bella differenza, no? Fa lui Kit. Ah, non no? Kit Carson. Perché lui è tipo orgoglioso, guarda, perché lui ci tiene questo... Kit faccia da pirla a Carson. Chiamava per l'IBAN per il bonifico? E fa, No, non siamo ancora in quella fase, signor Kid, faccio la pirla. Ci servirebbe solo per essere precisi, è una roba burocratica. Il certificato di revisione del suo motociclo, no? Giusto perché, capito? Mi fa, motociclo, ma c'ho scooterone, sì, dello scooterone, no? Cioè, non è che mica sbagliato pratica. Ma non è di Tex lo scooterone? Sì, però... Ma lui parla sempre lì. Lui, no? Invece di Tex, come fa a parlare? Ho capito, ma se dal comune gli chiedono... Da quanto ha cominciato queste avventure non ha ancora detto una parola. Niente, è lì rimbambito pieno di negroni. Vabbè, quello ognuno vive in modo suo, okay. La vita. Ho capito. Esatto, ma è comunque il comune che chiede a Kit Carson il certificato. È il comune che dice, qui è tutto a posto, siamo pronti praticamente. Manca solo questo, la quisquiglia del certificato di revisione, no? Sì, vabbè, perché è la revisione. Perché con le assicurazioni poi capita così, no? E lui ce l'ha, capita sempre, ce l'ha sempre, sempre qualcosa che ritarda. Solo che stavolta non è stato un ritardo. Cioè, questo è un blocco praticamente, no? È anche definitivo. Perché? Eh sì, qui c'è lo shock. In che senso? C'è il gran finale shock. Perché il giorno fissato per la revisione. Ma perché? La revisione non c'era. Cioè, doveva allora, farla apposta parlare, perché la revisione si fa una volta all'anno per robe di 25 anni fa. Allora, il giorno fissato per la revisione, perché loro prenotano sempre per lo scooterone, era anche il giorno in cui all'otto dovevano uscire i numeri ritardatari, no? Sapete che Kit è un giocatore nato, no? Compra tutte le riviste di lotto, quelle dei metodi infallibili. Quindi c'erano i ritardatari, quindi mentre andava all'officina con gli 80 euro per la revisione, si fa, perché avevano rotto il salvadanaio di famiglia, no? A un certo punto, un mese che stava in casa, che non poteva spendere. Senza mangiare. Oggi, oggi i numeri escono sicuramente. Quindi io mi gioco gli 80 euro sul terno 42-24-76. E fanculo la revisione, scusate. È il sogno così. È il pensiero di Kit. Tanto poi con le bici ci compriamo un furgone di quelli scoperti, no? Cioè io guido, Tex di fianco, e dietro TJ Jack e Kit figlio stanno dietro, no? Ascoltare però... della... Cioè si è già fatto tutto questo film... E mi pare di capire che però i numeri non siano usciti. Poi alla fine, sti numeri, non so come mai, non sono usciti. Ah, ecco, vedi. Quindi Kit era talmente imbufalito che si è dimenticato anche della revisione. Figurati, no? Certo, figurati. Salvo ricordarsene in quell'attimo del telefono, della telefonata. Quindi l'assicurazione fa, nessun problema, quando ci manderete via mail come fax il certificato, procederemo al bonifico dei 44.000 euro. 44.000 euro? Sì, sono lunghi, Beh, tre feriti, vorrei vedere anche voi. Comunque la parola 44.000 euro, chi ti faccia la pirla a Carson è sbiancato, no? Cioè dice, tanto gli altri te festeggiavano, non capivano niente. Cioè, Tess aveva caricato la pistola che era 25 anni che la scarica, sparava fuori dalla finestra ad altezza d'uomo. No, ma come? Adesso, mentre i due giovani lì a internet si erano già comprati con la carta di credito di faccia da pirla. Sei ore di webcam con una top model americana che costavano un capitale, capito? Sei ore di webcam. Sì, sì. Vabbè, però la telefonata, cioè, ci voleva quel certificato. Quindi quando è che glielo dà? Cioè, se l'è giocato. Vabbè, non fa il certificato falso, cioè uno ormai... 80 euro, ti danno 44.000. Devo mandarlo entro 24 ore, no? Ma dico, ma cos'è? Ma perché? Ah, perché è un sogno. Non so, mi dicono cose. Questo non esiste. Quindi sogno, è finito, no? Non so, a me mi è arrivata una multa stamattina, ma... la devo pagare entro quello è tutto relativo, poi non paga, non paga, poi arriva, c'è sempre tempo e tempo, no? Questi 60 giorni, noi paghiamo il 59esimo, in quel momento lì diciamo, ma senti un po', perché? Tanto la mora è piccola, poi puta a caso non arriva, quando arriva la cacciavo grano, adesso non ce l'ho, cosa devo fare? Devo pagare la multa per forza? Mi tolgo il pane di bocca perché devo pagare una multa? Come si fa? Accetto l'accordo, no? No, perché io già mi penso che, qui sono bambino, ma dico, la multa. Perché adesso lo dico a voi che siete adulti. Cappa, dai tu che sei il giovane che tu mi capisci. Drago! Sì, potresti essere, vabbè. Però venite qui un attimo che sono andati via. Prima si vede che hanno pensato che ero andato via, no? Pensavano rimasti loro così. Lui è andato via, bambino Alberto. E forse sì, sono andato via io per primo. Perché a me non piace che mi vanno via prima. Mi dicono niente. Vado io prima e dico, ma sei andato via prima? Sì, ma io ho i convenevoli, ce lo sappiamo, ci diamo ciao tutti i giorni, cosa serve, no? Ci guardiamo e diciamo, allora niente, qui il grano, e il grano non ce n'è mai. Mancano 65 giorni alla fine del mondo. È stato avvistato un nuovo video su YouTube con Cap e Drago che cantano Psycho Killer, che se. Oh oh oh oh. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Come 3 euro la cassa, Drago? Sì, 3 euro la cassa. Zucchine. La cassa sfondata, senti qua.